sarà l'avanzare dell'età, l'avanzare dell'età con la perdita di prontezza mentale che inevitabilmente comporta. Sarà una certa mia innata riluttanza ad adeguarmi ai nuovi linguaggi e ai nuovi modelli culturali correnti. Ma vi confesso che da un po' che con la pubblicità io mi trovo a disagio, e specialmente con quella televisiva. Ci sono degli spot che con me come non è proprio non riesco a capire, e certe volte mi sorprendo a seguire occhi sbarrati la pubblicità di una merendina o quella di un fissativo per dentiere, tanto per citare due categorie merceologiche tranquille che non dovrebbero presupporre un target particolarmente sofisticato, e mi chiedo con sincera perplessità: ma cosa vuol dire? Sì, è vero, uno di quei due anziani arzilli signori porta la dentiera e l'altro no. D'accordo, ma a me, scusate, a me cosa me ne importa? La tal barzetta contiene pan di Spagna, latte e nocciole, non ne dubito. Ma santo cielo, che altro mai dovrebbe contenere? E perché si suppone che l'esempio di quella bella ragazza abbronzata mi possa spingere a utilizzare un ammorbidente per la lana piuttosto di un altro? Non parliamo di quando un messaggio riguarda degli articoli che sono considerati tale da caratterizzare uno stile di vita, non so, le automobili o i telefonini, telefonini terribili. Allora, l'impiego di un linguaggio ai limiti dell'enigmaticità, di un linguaggio iconico quasi puramente astratto, non lo so, sembra praticamente d'obbligo, ed è da un mucchio di tempo che ho rinunciato a interpretarlo. E per questo, vedete, è per questo che ho colto con genuino entusiasmo e con un certo sollievo l'apparizione di quello spot in lode di una tintura per capelli che senza dubbio avete notato anche voi sui vostri teleschermi. Sapete, quello in cui c'è un giovanotto al ristorante con la belluona di turno e la sua voce fuori campo spiega che mai fino a pochi giorni prima avrebbe osato proporre una cena a una ragazza del genere, perché aveva, e lui non lei, aveva troppi capelli grigi. Ma poi ha scoperto il prodotto in questione, infatti lo vediamo in dissolvenza mentre si fa devotamente lo shampoo, e come inevitabile risultato non solo la cara giovane ha accettato l'invito, ma sulla soglia di casa, al momento di quello che dovrebbe essere il bacino della buonanotte, e si volta con aria malandrina, si capisce che sta valutando mentalmente le sfumature di colore della sua chioma, e gli chiede: vuoi entrare? E sullo schermo, come la sigla finale di un Technicolor degli anni 50, si imprime il logo della specialità, capace di produrre su entrambi questi mirabili effetti. Se riproduca sul serio, proprio non vi saprei dire, visto che età e stato civile mi tengono abbastanza a riparo da questo tipo di problematiche. E pur se dai capelli grigi non posso considerarmi altrettanto immune, non sono neanche in grado di giudicare l'efficacia della lozione al fine di ripristinarne la tinta originaria. Ho sempre condiviso personalmente il parere di quel personaggio di Woodhouse per cui quel male, la canizie, prevede una sola cura efficace, l'ha inventata un francese due secoli fa e la chiamano ghigliottina. E poi non è questo naturalmente il problema. Quello che trovo veramente suggestivo, che immagino troverete straordinario anche voi, è il fatto che un messaggio pubblicitario elaborato agli albori del XXI secolo continui a impiegare un'argomentazione implicita che risale, ma in pubblicità televisiva risale perlomeno alla metà di quello precedente, quando ricordo che a noi maschi si prometteva più ampio successo con le signore a patto che usassimo un certo tipo di brillantina. Che può sembrare certamente un problema da poco, ma pensate a tutto quello che implica in termini di ruoli, a tutto quello soprattutto che è successo nel frattempo: le trasformazioni del costume, la crisi della famiglia, la rivoluzione sessuale, gli hippie, la pillola, Woodstock, il 68, il femminismo, l'autocoscienza, l'edonismo legagnano, le lotte, i pax, gli anatemi papali, tutto quello che volete. E siamo stati in parecchi a credere con maggiore o minore entusiasmo, con maggiore o minore adesione ideologica, che da questo punto di vista il mondo, almeno il nostro mondo, almeno l'Occidente laico ed evoluto, fosse un pochino cambiato, che alle nuove generazioni potesse venire risparmiato quel micidiale gioco delle parti che ci avevano trasmesso i nostri patriarcali antenati, e adesso scopriamo che no, che c'è ancora qualcuno gente seria che presumibilmente ci ha pensato su, che ci ha investito tempo, fatica, impegno professionale, dei soldi, e che crede in tutta evidenza che il sesso sia ancora l'argomento per eccellenza per esortare ai consumi. È come dire che abbia ancora essenzialmente una funzione di scambio, quella per cui lui si tinge i capelli, lei gliela dà e tutti corriamo in massa a comprare il relativo prodotto. Un tipo di concatenazione valoristica che nel caso salta subito agli occhi perché si tratta di un messaggio pubblicitario di tipo piuttosto coerente, a budget limitato e di non eccelse ambizioni, che gioca la propria scommessa argomentativa su una proposta di transazione troppo manifestamente ineguale, no? Troppo manifestamente ineguale. Ma chissà se a cercarla non salterebbe fuori anche altrove. Il mercato è il mercato, ci siamo dentro tutti, per vendere, per comprare e per essere venduti e comperati.